Taccuino di viaggio. Foreste pluviali inesplorate, isole con spiagge tropicali intatte e fiumi sconfinati. Il Brasile è un paese che si estende su una superficie di oltre 8 milioni e mezzo di chilometri quadrati e occupa gran parte dell'America meridionale, dall'Equatore a ben oltre il Tropico del Capricorno. Terra di musica, sole e colori, il Brasile è la patria del carnevale, del calcio e della gioia di vivere. Cose da vedere. Rio de Janeiro è affacciata sull'Oceano Atlantico e i suoi abitanti sono detti cariocas. Qui la spiaggia è uno stile di vita, Copacabana è la più famosa e si estende per 4 km e mezzo, Ipanema è quella più esclusiva. La vista dalla vetta del Corcovado, la montagna con la statua del Cristo Redentore, permette di acquisire familiarità con la disposizione geografica della città. Altro punto panoramico è il Pan di Zucchero, che si eleva dal mare e che è raggiungibile in funivia. Bahia, terra da felicità. Lo stato di Bahia è la terra dei forti legami con l'Africa, del sincretismo religioso e della capoeira, arte marziale brasiliana. La sua capitale è Salvador, ricca di edifici storici e circondata da spiagge. Bahia è lo stato dei grandi musicisti contemporanei come Caetano Veloso, re della bossa nova e del movimento tropicalista. Risalendo la costa verso nord c'è Fortaleza, con oltre 500 km di spiagge e sole tutto l'anno. Nei locali notturni si balla il forró sino all'alba. San Paolo del Brasile è la città più grande del Sud America. Brasilia è la capitale del paese. Chi visita il Brasile per la prima volta non può perdere le cascate di Iguaçu, ai confini con Argentina e Paraguay. 275 cascate per un fronte di circa 4 km, situate nell'omonimo Parco Nazionale. In Brasile in tutto sono 44, nati con l'obiettivo di preservare l'ecosistema naturale. Cose da fare. Il surf è popolare lungo tutta la costa, così come gli altri sport da spiaggia. Nell'interno il rio Araguaia è famoso per la pesca. Gli appassionati di arrampicate su roccia trovano ottime possibilità nei vari parchi nazionali. In Amazzonia, lo stato più vasto del Brasile, dalla città di Manaus partono le escursioni nel cuore della foresta, la più grande del pianeta. Qui le strade sono i fiumi, grandi come mari. Il bacino del Rio delle Amazzoni occupa un territorio ampio quanto due volte l'India. Queste sono le terre degli indigeni, circa 70 i gruppi di cui oggi si ha notizia. Per osservare la fauna selvatica, la riserva più adatta è quella del Pantanao Mato Grossense, 250.000 km quadrati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Importato dall'Inghilterra nel 1890, il football, il calcio, è una passione nazionale. Si gioca per strada, in spiaggia, nella giungla. Da Pelé a Ronaldo e Ronaldinho, il Brasile vanta i migliori giocatori del pianeta ed è l'unico paese ad aver vinto per 5 volte i mondiali di calcio. I personaggi. Le sue opere pubblicate in oltre 160 paesi, tradotte in 69 lingue, hanno venduto più di 130 milioni di copie. Vai qui con noi, Paulo Coelho. Coelho, bentornato. Lo scrittore brasiliano più conosciuto oggi è Paulo Coelho, autore dell'Alchimista e del Cammino di Santiago. Nei suoi libri, anche se spesso ambientati in Europa, è forte la presenza della religiosità dei brasiliani, per l'80% cattolici. Jorge Amado, nato a Itabuna nel 1912 e scomparso a Salvador nel 2001, racconta invece dei candomblé, riti del sincretismo religioso che praticano le sue donne di Bahia. Gabriella Garofano e Cannella, Teresa Battista stanca di guerra. Vuole sposarmi? Questa sua domanda io l'accolgo. Anch'io desidero sposarla. Donna Flor con i suoi due mariti svela i segreti della cucina di Bahia, nella quale è forte l'influenza dell'Africa, da dove viene il dende, l'olio estratto di palma che caratterizza molti piatti. In Amazzonia si mangia pesce d'acqua dolce, frutta esotica e manioca. Nelle pampas delle zone intorno al Rio Grande si assaggia il miglior churrasco del paese, il manzo alla griglia. Piatto nazionale del Brasile è la feijoada, stufato di fagioli scuri e carne servito con riso e verdure. La bevanda più diffusa è la caipirinha, preparata con cachaça, liquore ricavato dalla canna da zucchero. Date da ricordare. Le celebrazioni della settimana che precede la Pasqua sono molto sentite in tutto il Brasile. La festa più famosa è il Carnevale, che si protrae per 5 giorni a iniziare dalla mezzanotte del venerdì prima del mercoledì delle ceneri. In Brasile il carnevale più scintillante è quello di Rio de Janeiro. Qui sfilano le migliori scuole di samba, mentre chiunque abbia voglia di ballare può unirsi alla processione di percussionisti, cantanti e bande che si esibiscono per le strade cittadine. E fra le danze in costume del Carnevale di Rio de Janeiro termina il nostro viaggio in Brasile. La prossima settimana si riparte, destinazione Spagna. Un saluto da Maria Chiara Grandis.